Bene, di nuovo in diretta, di nuovo da Parco Schufter per Enois. Mi sento un po' gracchiante. Vabbè, i problemi della diretta, aspettate un attimo, ecco, adesso va molto meglio. Dicevamo prima chi nel palco, insomma, come si avvicenderanno. E abbiamo qui in questa postazione volante a fianco al palco, infatti potete sentire anche la musica, Ascanio Celestini che fra un po' salirai sul palco, mi pare alle ore 19, dicevano? No, penso verso le 21. Quindi sono pronto? Sì, ecco. Allora scusa, mi sono sbagliata io. Verso le 21 dovremo salire sul palco con Zero Calcare. Con Zero Calcare, questa strana coppia. Zero Calcare disegna, tu in genere reciti e parli, com'è nato questo? Beh, funziona, nel senso facciamo due cose diverse, per cui se disegniamo tutte e due era secondo slalom, insomma. Ma guarda, in realtà ci siamo incontrati, abbiamo fatto una scaletta dei racconti, dei racconti miei e disegni suoi, per cui il tentativo è questo, vediamo un po' anche in diretta quello che succede, nel senso che non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo fatto noi, l'ho fatto un sacco d'altra gente, insomma, fare racconti e disegni insieme. Lui però è uno molto, apparentemente molto diretto, ma in realtà è molto molto preciso, per cui penso che in questi giorni che non ci siamo visti avrà fatto tutte le sue prove, insomma, per stare appunto in questa sorta di slalom, stare sempre, sempre davanti a me. Ma di che cosa ci racconterai? Vuoi dire ma guarda, cose? Noi facciamo mezz'ora, 40 minuti, non di più, e io faccio due racconti, uno che apre e uno che chiude, sono un po' due racconti metaforici, insomma, sull'idea della partecipazione attiva, per cui sono due storie che racconta un uomo che sta seduto in una stanza e vede il rubinetto che goccia, sicuramente era il fatto che c'è questa goccia che cade, però non si alza e non va a chiudere il rubinetto, e quindi produce tutte le sue teorie su come potrebbe comportarsi lui o qualcun altro nei confronti di questa goccia, se ci fosse un uomo di destra cosa farebbe, se ci fosse un uomo di sinistra cosa farebbe nei confronti della goccia, se avesse un sindacalista cosa farebbe nei confronti della goccia, fatto sta che alla fine muore affogato, insomma. Questo è l'inizio e la fine del racconto. Poi c'ho altri due racconti che farò, uno è proprio la trascrizione di un'intervista che ho fatto con Patrizia Aldrovandi, la madre di Federico Aldrovandi, insomma, che è molto bella, non perché l'ho fatta io, ma perché sono le cose che dice lei, peraltro fatta poco più di un anno fa, quindi alla fine di tutta la storia del processo, nel momento in cui non è, come dire, raccontavo soltanto del figlio come un figlio, insomma, come un ragazzino, ed è un po' un lavoro che sto facendo in questi anni, quello di raccogliere storie di persone che noi conosciamo attraverso i giornali, ma che non conosciamo mai come persone, come esseri umani veri, no? Per cui i giornali ce li allontanano sempre, no? Quello è un tossico, quello è, capire, uno è un matto, quello, e invece quello lì era un ragazzo di 18 anni che faceva lezione di guida con la madre a Ferrara Sud, e quindi ci sarà quella storia, e poi un'altra breve storia che invece è appunto anche quella lì un po' più metaforica sull'idea della violenza, per quale motivo noi viviamo alcuni episodi di violenza molto diretti e apparentemente invece la maggior parte della nostra vita non sembra mai così direttamente legata all'episodio di violenza. Ma diciamo che ultimamente, non so se la pensi così anche te, insomma, gli episodi, chiamiamoli di violenza, stanno aumentando anche nella nostra città ultimamente, a fronte degli sgomberi, a fronte anche dei singoli. Il razzismo sta aumentando, tu spesso hai parlato anche del razzismo nelle periferie, dei grossi cambiamenti culturali. Se dovessi farci un disegno, un pensiero sulla Roma di quest'agosto, che cosa ci diresti? Non lo so. C'è questa terza via grillina in questi ultimi anni che stiamo vivendo in maniera anche probabilmente inappropriata, un po' anche un po' disarmare, che non ci aspettavamo. Insomma, eravamo abituati a come dire, il peppenismo del post PC. Eravamo abituati alla violenza della destra, verbale o meno, ma questa cultura questo onestismo del Movimento 5 Stelle penso che non siamo ancora preparati, perché che fa, che gli dici? Qualsiasi cosa dice a quel partito politico, persino che è un partito politico, gli erode il culo, per cui è un po' complicato, insomma, confrontarsi. E più che il, non voglio fare paragoni, come dire, anche antistorici, più del socialismo reale e del nazismo, loro veramente rappresentano l'idea di massa aperta degli ascanetti, cioè più gli attacchi più diventano forti, per cui hanno fatto un grande lavoro di marketing. Prendersela col partito di Grillo è come prendersela con Coca-Cola, alla fine se la bevono tutti. Più ne parli, più dici, più hanno consenso. Sì, a parte mi sa che sul mixer sto in un modo ma scandaloso, chissà perché, forse per quel ecco. Vorrei sapere come si sente la casa, però veramente adesso che qualcuno sente la radio, la vostra radio, sempre. Certo. Ah, grazie, assolutamente, eh. No, dopo 40 anni di radio dirci queste cose ci veramente rafforza e rallegra. Faccio training per lo spettacolo. Certo. Perfetto. Forse adesso mi sento un pochino meglio. Sì. No, voglio dire che però sì, in questo marketing tra l'altro hanno fatto un gemellaggio con la polizia che veramente nemmeno il PC, nel senso che mi sembra che no, con quelle caratteristiche poi, insomma, così, anche così la smettiamo di parlare degli spettacoli, perché a noi non ci ascolta nessuno e nessuno viene ai tuoi spettacoli, cioè la cattiveria l'ha regalata. No, nel senso che ormai in questo, il fatto che questa città non sia governata o che sia governata sempre da persone che passavano di qui per caso, che io non ero attento, così, è poi la misura in cui alla fine il governo è sempre tecnico, è sempre la polizia, oppure di persone che comunque dicono vabbè, ma noi non facciamo politica, a noi ci interessa l'onestà. Io credo che, no, come mi sono immaginato lo spettacolo che avete fatto sulla partecipazione diretta sia, non lo so, io spero e credo che poi alla fine sarà una risposta soprattutto a questo problema che è assurdo e che ormai è diventato veramente lo standard di come si fa la politica in Italia, cioè c'è solo da amministrare, non c'è da prendere decisioni, quindi voi siete semplicemente fuori dalla storia. Non è vero neanche del tutto, perché a proposito di partecipazione, ma insomma qui non voglio fare polemica, e proprio oggi sentivo, mi sembra un telegiornale dell'ultima delibera della giunta della nostra città, in cui viene ristretto la trasparenza, l'accesso agli atti, quindi cioè, i grillini che hanno fatto una battaglia, no, a fronte di partecipazione, trasparenza, noi tutto in chiaro, adesso la sindaca ha deciso no, accesso ai giornalisti, gli accesso a chi ci critica, no, non va bene. Non tutti gli atti si possono vedere, non tutte le delibere, anche i consiglieri, l'opposizione, è meglio che non tutti vedano tutto. Comunque, a parte questo, che avremo modo sicuramente di parlarne insomma in altri momenti. Sì, ma sai cos'è per questa qua? Io sono d'accordo, cioè nel senso non lo so, la prendo per buona come cosa, figuriamoci, non è questo. I giornali non dicono balle. Sì, sì, no, figuriamoci. Cioè, il problema non è questo, cioè non è quello che succederebbe davvero. La questione fondamentale per la maggior parte delle persone è quello che viene comunicato. Poi quello che succederebbe davvero succede sempre da un'altra parte, no? Lui prima parlava della storia, è stato un problema per tutto l'Ottocento e il Novecento, fa entrare le masse nella storia, i popoli nella storia. Adesso i popoli non stanno più nella storia, stanno su un software di Casaleggio Morto, insomma, e fa veramente impressione questo, cioè la storia non è più quello che succede, ma è semplicemente quello che viene raccontato in un certo modo, in un modo che sia vendibile, attraverso una narrazione che sia, come dire, entusiasmante, apprezzabile. Allora, che io dica una cosa vera o falsa, lì no, nell'Ottocento e Novecento ci siamo rotti il cervello, no, sul concetto di verità. Oggi il problema della verità è come se non esistesse più, esiste solo per alcune persone. Oggi la questione fondamentale è quanto è interessante questa narrazione. Allora, più è interessante e più questa narrazione viene venduta, per appunto, come la Coca-Cola, l'acqua frizzante, i computer della Apple, eccetera eccetera, insomma. No, per questo poi prima ti chiedevo, tu hai parlato spesso delle nostre periferie, no? Che cosa potresti raccontarci di queste periferie? Ti dico una cosa, allora, a un certo punto proprio una del partito di Grillo disse in televisione, una trasmissione, che al Quarticciolo, al teatro del Quarticciolo, un teatro di 150 posti, il teatro biblioteca Quarticciolo, e avrebbero portato gli immigrati. La gente del Quarticciolo, cioè, allora adesso chi vive a Roma e conosce cioè che cos'è il Quarticciolo lo conosce esclusivamente, secondo me, o perché conosce qualcuno che ci abita, o perché andare a mangiare i quaglie dal quagliare del Quarticciolo. Non ci sono altri motivi, perché non è un posto nel quale passi. Se passi vicino, se la premiano gli altri, ma non c'entra dentro. Per cui persone che vivevano al Quarticciolo e che hanno sentito questa deputata in televisione dire che avrebbero portato degli immigrati al teatro biblioteca Quarticciolo, ripeto, 150 posti seduti, quanti immigrati ci ponete? 200? 250? Alcune persone del Quarticciolo in piedi si è ammucchiato, vabbè, ma tanto sai quanto cazzo viene fuori a ammucchiarli, certo. Eppure, cioè, le persone che vivevano lì davanti al teatro hanno creduto alla televisione, nonostante avessero, io spero, insomma, per loro chiaro che il Quarticciolo non è un posto nel quale si parla, no? Però appena parli del Quarticciolo, ne parli in televisione, ne parla una deputata di un partito, immediatamente credi ad una cosa impossibile, insomma, portare gli immigrati al Quarticciolo. Se la raccontavo io, mica mi avrebbero mai creduto, ovviamente, no? Tu sempre perché Radio Onda Rossa non la sente nessuno, solo per questo. No, questo non è vero, come dire, i magistrati. Adesso non viene, adesso ci sono due compagni che, proprio perché hanno fatto un'intervista Radio Onda Rossa, sono sotto inchiesta disciplinare, sono stati sospesi dal lavoro perché hanno denunciato. Ah, vabbè, meglio ancora, quindi c'è, non solo non la sente nessuno, chi la sente sono guardie, quindi. Esatto. E se non sono guardie, so chi, insomma, chi ha un potere anche in un luogo di lavoro pubblico. Forse per questo se non la sente. Radio Onda Rossa, la radio delle guardie. Detta così. Quindi se uno vuole come dire, quindi tu dici, vabbè, insomma, non esiste una verità, non esiste, fra un po' non esiste manco più una città, staremo semplicemente sopra i social, su come ci descrivono. Comunque, però penso per questo potere, no, della... Cioè, in realtà non è così, perché poi adesso, no, tanto per cazzeggiare, però qua c'è un sacco di gente stasera, e c'è gente che... A parte me che non c'ho più manco un telefono, una macchina, ma insomma, c'è gente che viene qui perché pensa ancora che la relazione umana sia quella che ci hanno insegnato quando eravamo bambini, cioè che l'essere umano vive delle relazioni dirette. Certo, certo. E noi volevo dire che proprio esattamente perché ci troviamo in un periodo in cui la narrazione, quale che sia, poi alla fine vince per il semplice fatto di essere detta, oppure di essere emozionale, quella più affascinante. E allora, insomma, anche per questo è un piacere averti ospite, visto che della narrare l'hai sempre saputo fare, non dicendo sciocchezze come tal altri, quindi, insomma, secondo me è veramente importante questo, lo dico non soltanto come adulazione a te che non serviva, no, ma anche perché mi sembra una cosa bella che Renoiz ha saputo, no, pian piano introdurre, magari qualche anno fa secondo me ce n'era un po' di meno di parti teatrali, non è che non c'erano, ma mi sembra che siano in aumento, non vorrei di una stupidaggine, le capacità di mettere anche, no, arti diverse, più proiezioni, più modi di comunicazione, secondo me è qualcosa che, a parte che poi proprio come dire, come spettacolo ha funzionato negli anni scorsi e mi aspetto che funzionerà anche quest'anno da un punto di vista artistico, dico, di bello spettacolo. E poi che è proprio interessante per appunto, se vuoi fare un'iniziativa, che cosa vuol dire, no, comunicare l'antifascismo oggi? Certo, è una grande iniziativa, dimostra che tante persone l'hanno a cuore, ma c'è anche la necessità di, come dire, se non è un corteo, no, perché anche con un corteo dimostri che in tanti ci tieni, se non è un corteo deve avere le specificità, le caratteristiche di comunicazione che mi sembra che sappia fare. Ma anche un modo per rivendicare forse un modo diverso di vivere gli spazi di questa città. Un'altra attenzione che da questa giornata è stata nei confronti dei bambini, un cabaret fatto di risate. Bello, bello, lo spettacolo. Poi ho anche una certa soggezione nei confronti di chi fa il teatro di strada, perché a differenza, cioè, tanto il mio bicchiere è vuoto ormai, non si butta anche per, no, nel senso, nei confronti di chi c'ha, facendo teatro c'ha una capacità vera, visibile, la giocoleria, la danza, la musica, lo spettacolo dal vivo è una grande risorsa politica per non soltanto per il nostro paese, ma insomma in generale, perché appunto per vedere uno spettacolo dal vivo prima cosa devi essere vivo, sia tu che quello che lo fa, e poi devi stare lì, ci devi stare, non funziona la televisione, il video, non te lo scarichi, cioè tutto sta un passo indietro rispetto allo stare realmente davanti a delle persone vive che stanno facendo spettacolo. Beh, in effetti pure a me è piaciuto, ho visto solo dei pezzi, insomma, poi stavamo qui intorno, insomma il mix alla radio, però mi è piaciuto questo fatto, perché uno si chiedeva ma che vuol dire un cabaret antifascista per i bambini, no? Poi ti accorgi che al di là delle cose che vengono dette, proprio la rappresentazione dei corpi, il fatto di riuscire a far ridere senza avere grosse scenografie, grossi meccanismi. Sì, c'è stato tutto un lavoro di acrobazia con le stampelle a un certo punto. L'ho vista, stupenda. Ed era tanto ridicolo quanto meraviglioso, ma bellissimo, bellissimo. Per cui, e vedere anche tanti bambini che rimanevano lì seduti, cioè, i bambini, anch'io ho dei bambini, insomma, c'è mia figlia. La più piccola ha 4 anni e va in rete col tablet, anche se lo chiama tablet, e se vede le cose fa i giochini sul telefono, per cui non è che, cioè, nel senso, non, nella mia famiglia noi non siamo quelli che dicono io ho buttato la televisione, no noi ce l'abbiamo a casa la televisione, sì, no noi siamo proprio una famiglia borghese, guarda, cioè nel senso la televisione ce l'abbiamo, accendiamo, ci vediamo le cose, mio figlio si vede le serie su Netflix, per cui non viviamo fuori al mondo come sarebbe anche bene fare, peraltro, cioè non è che ci coltiviamo l'orto, c'è il basilico, ma perché è cresciuto in maniera miracolosa, non so come riuscire a crescere sto basilico. Detto ciò, nonostante tutto, i bambini, anche i miei, che sono bambini normalissimi, davanti ad uno spettacolo del genere stanno seduti e se lo guardano, perché c'è quella differenza tra l'esserci e non esserci, che non è una citazione all'Amleto, appunto, sì. Cioè, stare veramente là davanti in carne e ossa, che è un'altra cosa, cioè è un'altra cosa rispetto a qualsiasi tipologia di rappresentazione e di comunicazione. Vabbè, qui il discorso si potrebbe ampliare molto. Poi peraltro la radio da questo punto di vista è il mezzo più astratto e più concreto, nel senso che meno della radio c'è niente, perché è solo voce, però è quello che paradossalmente proprio attraverso le parole come significanti producono degli oggetti. Cioè io ascolto la radio, perché dovrei stare un'ora a sentire la radio? Nessuno guarda la radio, no? Perché non è che vedi le cose nella radio, però vedi le cose attraverso la radio, perché per questo dico è il mezzo tutto sommato più astratto ma anche più concreto. In più, rispetto a quello che è la rete, soprattutto oggi, la radio è in diretta. Certo, ti permette un contatto, la possibilità di un rapporto, di una telefonata. Magari ancora a questo non ci siamo arrivati, ancora a quel telefono. La telefonata? Ce l'abbiamo. Il telefono ce l'abbiamo, non qui. Non qui. No, se no tu ci prende in giro, devi stare attento. No, perché tu mi dici, quadrato. Mi dici il telefono, a me mi viene in mente che il mio manco funziona, ci posso fare solo le fotografie col telefono mio, figuriamoci. È sicuramente un modo di rimetterci in gioco comunque. E a proposito, quindi ovviamente vi invitiamo, certo è vero che stiamo facendo la diretta, ma invitiamo in realtà, se potete, a passare qui, visto che tanto parlare, no, della prefisicità, della presenza, e poi se vi invitassimo solo ad ascoltarci in radio saremmo matti, no? Invitiamo a passare qui, magari anche a farci un saluto, ci trovate agli stand abbastanza vicino al palco, diversamente da dove eravamo gli altri anni. E io non vorrei tagliare il discorso, che era interessante, ma forse manderei il compagno della rete Mapuche. Era interessante, ma forse è meglio. Mandiamo direttamente il palco. Altra cosa. Ciao Ascanio, grazie di nuovo. Ciao, grazie. Grazie a voi.